nel cielo non c'era più un uccello, neanche un insetto nell'aria. I cani avevano smesso di abbaiare. L'onda d'urto spostò l'aria intorno, piegò la cima degli alberi e percorse 15 chilometri fino a Jardin de Plain, Jardin de Luxembourg e Notre Dame, dove per il tremore l'unghia di un gargoyle si inclinò e cadde, e per poco non colpì un turista che passava di lì e non si accorse di niente. Tutti gli alberi di Champs-Élysées si inchinarono al cospetto dell'onda che si infranse contro l'Arc de Triomphe e tutti i piccioni spiccarono il volo. Un notaio, che non aveva potuto essere con gli altri per via di un impegno, prese il fucile, lo sfoderò, prese la mira e... mancato. Come Jean, che era ancora vivo. La casa era ancora in piedi. Cimitero di Lione, illudendomi che non ci fosse bisogno di altro per vivere. Era la felicità che avevo sempre cercato. L'avevo trovata e scoperto che cosa fosse. La felicità che mi era sempre stata negata. Avevo il diritto di viverla, quella felicità. Non me l'avete concesso. E allora è stato peggio per me. Peggio per me, peggio per tutti. Dovrei rimpiangere ciò che ho fatto. Forse. Ma non ho rimorsi. Rimpianti sì, ma in ogni caso nessun rimorso. La seconda parte dello spettacolo, In ogni caso nessun rimorso, ispirato all'omonimo romanzo di Pino Cacucci, per la regia di Mauro Pasqualini, con Elisa Proietti, Andrea Sorrentino, Mauro Pasqualini, musiche originali dal vivo di Adele Pardi. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con l'attrice Monica Belardinelli per presentare lo spettacolo Donne di Mafia. A Roma, allo spazio 18B, dal 23 al 26 maggio 2022. Ben trovata. Ciao Federico, buonasera a tutti. Grazie come sempre per la tua attenzione. Che racconto è questo? Questo testo di Massimo Roberto Beato nasce, c'è stata una precedente edizione per i 20 anni delle stragi di Falcone e Borsellino, e quindi le stragi di mafia che hanno riguardato la Sicilia. L'intento era quello naturalmente di mantenere viva una memoria, e il racconto nello specifico lo fa attraverso la scelta che alcune donne di Palermo hanno fatto di manifestare il loro dissenso, il loro no alla mafia attraverso un digiuno. Quindi dopo la morte di Falcone queste donne si interrogano su che cosa possono fare loro contro la mafia e decidono, al di là delle posizioni politiche, appartenenza ad associazioni o partiti, di stare in piazza, piazza Castelnuovo, una piazza importante di Palermo, stare in piazza e digiunare contro la mafia, contro questo il tarlo della mafia che stava logorando la Sicilia. E quindi è un racconto di donne che hanno naturalmente provenienze diverse, quindi punti di vista diversi, chi è più titubante, chi è spaventato, chi invece è mosso da una passione e da una volontà di cambiare le cose, chi è più giovane, chi è più maturo. Sono esempi naturalmente, perché non sono riferiti a persone realmente esistite, sono frutto della fantasia dell'autore, che naturalmente ha creato 4 tipologie di donne, 4 delle possibili donne che potevano stare in quella piazza a digiunare contro la mafia, le donne del digiuno appunto. Come sarà la messa in scena? Useremo il teatro Spazio 18B in una maniera diversa rispetto alla consuetudine, naturalmente con uno spazio che si presta. Quello che ha scelto di fare il regista Jacopo Vetti insieme a Sara Meoni, che oltre ad essere una mia collega, attrice nello spettacolo, è un'artista che si occupa molto del corpo degli attori e di come la parola in realtà sia corpo. E quindi quello che faremo noi sarà come se fosse una specie di flash mob durante tutto lo spettacolo, ripercorriamo sia con le parole, sia con i testi originali, ma soprattutto anche con il corpo, quello che quelle donne hanno scelto e avuto il coraggio di fare in quei 3 mesi. Su cosa si concentra la scrittura? La scrittura parte dalla notizia della strage del 23 maggio, quindi l'uccisione di Giovanni Falcone, di sua moglie e della scorta, e da lì, durante la veglia per il funerale di Falcone, dove poi conosciamo per immagine di repertorio le parole di Borsellino, le parole della vedova dell'agente della scorta Rosaria Schifani, queste donne guardano la folla che si era radunata a Palermo queste immagini e si interrogano su cosa possono fare. Da lì si sviluppa tutto attraverso quell'estate fino al giorno in cui loro decidono di smontare questo sit-in, quindi ormai sono insomma nei 3 mesi successivi alla prima strage, la strage di Capaci, dal 23 maggio e per i poi successivi 3 mesi, quello che è accaduto a Palermo con la caduta di queste anime, queste persone che hanno scelto da che parte non stare soprattutto. Farà un suo percorso lo spettacolo? Il nostro intento è anche quello di poterlo portare nelle scuole, perché si presta molto a un linguaggio e una fisicità che può coinvolgere anche spettatori più giovani. E poi ci saranno altre date anche in dei festival estivi della capitale. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Lo spettacolo si terrà dal 23 maggio al 26 maggio alle ore 20:30 allo spazio 18B, in via Rosa Raimondi Garibaldi 18B. Per prenotazioni, la prenotazione obbligatoria, potete mandare un messaggio al nostro numero WhatsApp 333-3305-794 oppure inviare una mail a biglietteria@spazio18b.com. Naturalmente c'è anche il nostro sito www.spazio18b.com. Lo spettacolo Donne di Mafia a Roma, allo spazio 18B, dal 23 al 26 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Monica Belardinelli. A presto! Grazie a te, volevo ricordare i miei colleghi in scena, certo. Naturalmente, perché non si fa il test di Massimo Roberto Beato, la regia di Jacopo Pezzi, con Virginia Bonaccini, Sara Meoni e Veronica Rivolta. Grazie Federico, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori. Con Laura Sonnino per presentare la conferenza stampa Insieme Resistiamo, teatro sociale di comunità, come l'arte e la cultura possono essere uno strumento fondamentale in contesti sociali degradati. Tutto questo a Roma, alla Biblioteca Aldo Fabrizi a San Basilio, giovedì 26 maggio 2022. Ben trovata! Ciao, ciao a tutti e tutte! Ce ne parli? Io naturalmente mi faccio da portavoce, perché noi siamo un collettivo artistico che si è creato nel quartiere di San Basilio a dicembre del 2020, quindi proprio in piena pandemia. E quello che stiamo facendo è il secondo festival Zambarte all'interno dell'edilizia popolare del quartiere. Il 26 maggio presenteremo quello che è il festival, però lo presentiamo in una maniera creativa e allo stesso tempo che ci sia una relazione anche tra quello che facciamo, un incontro su quello che vogliamo proporre tra esperti del settore, ma non solo, ma anche tra gli abitanti del quartiere, per creare proprio una relazione, e da questo viene il tema di quest'anno che è Insieme Resistiamo, dove vedete nella locandina il simbolo della balena. La balena è proprio il simbolo, è una fontana, una piazza, l'unica piazza che c'è a San Basilio, che ha questa fontana proprio multicolorata che rappresenta questa balena. Come si svolgerà l'evento? L'appuntamento è alle 16:30 alla Biblioteca Comunale Aldo Fabrizi, che si trova nel quartiere di San Basilio, in via Treia 14. E già nell'arrivare diventa una poesia, perché c'è questo cortile bellissimo dove ci sono dei murales che sono stati fatti nel passato, tra l'altro molto belli. Nell'entrata della biblioteca troverete una mostra fotografica a cura di Daniele Napolitano, che ha ripreso con il suo occhio artistico quello che sono stati gli eventi fatti dalla rete di San Bart e anche dal Centro Popolare San Basilio. Accompagnata da questa mostra ci saranno invece delle audio interviste che sono state fatte agli abitanti del quartiere chiedendo se conoscevano San Bart, che cosa fosse San Bart, che cosa ne pensano di quello che facciamo. E l'altra domanda è: che cosa pensano potrebbe servire al quartiere di culturale artistico o che cosa gli piacerebbe venisse fatto? Queste interviste accompagneranno la mostra fotografica ed è proprio questo il tema, no? Trovare un incontro per costruire insieme un percorso artistico e culturale che porta una trasformazione anche del quartiere, ma più che trasformazione, un cambio mediatico di quello che è il quartiere, perché non è proprio una trasformazione, le persone ci sono, esistono, hanno dei valori, hanno delle qualità e attraverso l'arte e la cultura le portano in scena in qualche modo. No? Perché l'intento nostro è proprio di coinvolgere anche le persone, gli artisti che abitano nel quartiere e di creare tutto ciò che fa parte delle creazioni, della cultura, dell'espressione identitaria degli abitanti del quartiere. Tant'è che insieme a questo ci sarà anche una mostra dei burattini, perché durante il mese di maggio come rete San Bart abbiamo realizzato dei laboratori, dei burattini per bambini e bambine del quartiere a titolo gratuito, sempre all'interno della biblioteca Aldo Fabrizi, e con grande gioia e entusiasmo abbiamo avuto una grande partecipazione. Quindi verranno esposti i loro manufatti e con grande entusiasmo anche perché questi manufatti si esibiranno, prenderanno vita, un po' come la storia di Pinocchio, all'interno del festival di San Bart. Saranno proprio loro ad aprire, a dare là a questo festival il 10 giugno, che è la prima data. Quindi le date del festival già sono ufficiali? Sono 10, 11, 12 giugno e poi 17, 18 e 19 giugno. Ci dai tutti i riferimenti web? La pagina Facebook che è San Bart in Festival, c'è anche una pagina Instagram sempre come San Bart in Festival. Però mi faceva piacere comunque continuare a parlare di quello che sarà la giornata del 23 maggio, perché avremo tra l'altro come ospite Ascanio Celestini, che porterà la sua visione attraverso naturalmente la sua modalità di fare arte e cultura attraverso il teatro di narrazione, no? Portando appunto quello che è il suo pensiero, e che aprirà la tavola rotonda e il dibattito che ci sarà subito dopo questa mostra fotografica, dove appunto incontreremo, oltre ad Ascanio Celestini, anche un rappresentante che è Gabriele Longhi, che si occupa della comunicazione di Periferia Capitale, che è il progetto della Fondazione Charlemagne, che operano comunque da un po' di anni in questo progetto all'interno delle periferie di Roma. In più anche degli esperti del settore. È una vera e propria tavola rotonda dove discuteremo su quello che è l'arte e la cultura, come possono essere strumenti comunitari di trasformazione dei territori degradati ma anche non degradati, quindi proprio come possono essere questi strumenti a funzione del contesto sociale dove vengono portati. In più come costruire questa cosa dal basso, creando una partecipazione attiva del territorio. Poi successivamente alle 18.30 invece verranno proiettati dei corti d'autore che sono stati girati durante l'evento che abbiamo creato insieme anche al territorio a Carnevale quest'anno. Quindi ci sarà Pensieri d'amore a San Basilio di Federico Moschetti, che sono delle interviste che riprendono un po' per ricordare il centenario di Pasolini, in cui le varie realtà presenti nel quartiere che hanno partecipato alla realizzazione del carnevale sono state fatte delle domande: che cos'è per loro l'amore, riprendendo appunto interviste d'amore di Pasolini. In più il quinto carnevale di Samba di Diego Maggini, che riprende col suo occhio da regista quello che è stata proprio quella giornata, che è stata veramente intensa, emozionante, con un'ampia partecipazione, e questo ci ha reso veramente pieni di gioia e allegria, portando bellezza nel quartiere. La conferenza stampa e l'evento per la presentazione del Festival San Bart, dal titolo Insieme Resistiamo, A Roma, la Biblioteca Centro Culturale Aldo Fabrizi, giovedì 26 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento a Laura Sonnino, ideatrice e organizzatrice del festival. A presto! Grazie Federico, grazie. Con Daniele Biacchessi, ideatore del festival La Città dei Narratori, a Montefiascone dal 27 al 29 maggio 2022, ben trovato! Buongiorno a te e ai tuoi ascoltatori. Raccontiamo questa avventura. Il festival La Città dei Narratori è organizzato dall'associazione Ponti di Memoria, che è un circolo ACI ed è un progetto che raduna i principali artisti, scrittori, musicisti e quant'altro di impegno civile che hanno la conservazione della memoria come l'obiettivo principale. Siamo alla 10ª edizione ed è il ritorno in presenza di un festival che è itinerante, che era partito dalle periferie di Milano, da Rozzano, poi a Milano, poi a Certate, Sinalunga, in altre parti d'Italia, Bologna e Roma, fino ad arrivare a Montefiascone, nel cuore della Tuscia, al 100° chilometro della Via Francigena, un posto magnifico, con una vista sul lago veramente spaziale e alla Rocca dei Papi, ma anche alla biblioteca e all'enoteca. Per 3 giorni ci sarà un cartellone veramente molto folto e molto variegato di scrittori che presentano i loro libri, di musicisti che suonano, di attori e registi di teatro importanti. Cominciamo con il 27 di maggio, si apre alle 17, dopo i saluti del sindaco e dell'assessore alla cultura. Ci sarò io con i nuovi poveri sulle disuguaglianze e Nora McKeon con Food Governance, quindi il tema della sostenibilità ambientale, delle disuguaglianze, delle povertà, questi temi aprono il festival. Ci sarà un intervento anche di Monsignor Fabio Fabene, che è un collaboratore molto vicino a Papa Francesco, quindi la sua idea di ecologia integrale fa parte a pieno titolo del nostro ragionamento. Poi c'è Virginia Piccolillo che presenta il suo libro Apnea, la storia dei vigili del fuoco che hanno salvato centinaia di persone quella maledetta sera del Costa Concordia all'isola del Giglio. Poi facciamo un po' il punto sul giallo, presentiamo dei lavori di Adele Marini e di Gino Marchitelli, giallista da molti anni, e l'ultimo suo libro si chiama Delitto in piattaforma, è quanto di più attuale sulle piattaforme petrolifere. Mentre Adele Marini indaga sulla storia e sulle morti un po' strane, quantomeno non del tutto chiarite fino in fondo, di molti personaggi della storia, tra cui Antonio Gramsci e Giacomo Matteotti, Anita Garibaldi e molti altri. Poi passiamo al concerto dei Gang in acustico e sarà presente anche il comandante Gianluca Spirito, chitarrista dei Modena City Rambles, una jam veramente molto, molto bella. Il giorno dopo ci spostiamo all'Enoteca il 28 al mattino, dove con i ragazzi di Libera Voce, che è una delle associazioni che collabora con noi, insieme al CIC, Centro di Iniziative Culturali, e la Piccola Galleria, ci sarà una mattinata in cui faremo vedere un film che considero molto importante, che si chiama Infotainment, con Luca Perri, con Barbara Skouras, come nascono le fake, con il mondo delle fake, tempi di Covid e non solo, anche direi anche in tempo di guerra. Da lì ci spostiamo alla biblioteca, dove Tiziana Di Masi e Andrea Guolo presenteranno un reportage straordinario, forse uno dei primi corposi veri, sul volontariato in Italia, cioè chi sono, cosa fanno decine e decine di migliaia di volontari che occupano una parte del loro tempo, della loro vita per aiutare gli altri. E oltre a loro saranno presenti molte delle associazioni, non solo che collaborano col festival, ma anche quelle associazioni che sono più vicine al territorio. Ci spostiamo poi il 28 sera alla Rocca dei Papi con Gabriele Vacis, il grande regista di Marco Paolini, del teatro di Settimo torinese, insomma il grande padre del teatro civile, insieme a Letizia Bernazza di Limita Teatri, Elena Guerrini, artista che aveva inventato il festival del teatro a baratto, cioè il teatro in cui non si paga il biglietto, sì, ma gli spettatori vanno a vedere gli spettacoli barattando qualcosa, e Chiara Di Masi, che oltre che scrittrice è anche una bravissima attrice. E poi il concerto in acustico di Massimo Priviero. Il giorno dopo rimaniamo sempre alla Rocca dei Papi con un lavoro che considero veramente straordinario, di tutti i ragazzi della scuola, dell'istituto dalla chiesa di Montepiascone, che hanno fatto un lavoro in video sugli articoli della Costituzione, perché il Festival Città dei Narratori ovviamente prende in esame tante tematiche, ed è ovvio che all'interno di queste tematiche ci sono anche e soprattutto alcuni degli articoli più importanti della nostra Costituzione. Poi ci sarà Lucia Visca, che presenta il suo libro su Pierpaolo Pasolini. Lucia, ai tempi giovane cronista di Paese Sera, fu la prima giornalista ad arrivare ad Ostia il giorno in cui venne ritrovato il corpo, ormai senza vita purtroppo, del grande poeta, scrittore e regista Pierpaolo Pasolini. Ci sarà un lavoro assolutamente inedito su che cosa è stata la Shoah in tutta la zona della provincia di Viterbo, quella che va chiamata Tuscia, e la Shoah con campi di detenzione, di deportazione contro ebrei, ma anche contro oppositori politici, e quindi insomma è importante tornare in quel punto sulla memoria. Poi ci sarai tu col tuo bellissimo libro che stai portando in giro ormai da diverso tempo, Silvio Antonini con questo libro sulle recensioni, Luca Telese che ha fatto un libro straordinario su Enrico Berlinguer, sulla scorta, quelli che proteggevano Berlinguer, dove ci sono tante cose inedite, e infine il mio film Le mani in pasta, che chiude il festival. Insomma, tre giorni pieni di cultura, spettacolo e tanto altro ancora, che spero gli amici, compagni, soprattutto che abitano nella zona intorno a Roma, possano godersi non soltanto il festival, ma anche tutto quello che c'è intorno, le bellezze di un luogo veramente magico che è la Tuscia. Per tutte le informazioni e i dettagli ci dai riferimenti internet? Tuscia.online, questo è il sito. Poi c'è un evento su Facebook, Città dei Narratori 2022. La Città dei Narratori a Montefiascone dal 27 al 29 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore Daniele Biacchetti. A presto! A presto, grazie a voi. Con Flavia Famà, autrice del libro I morti non parlano, la guerra infinita in Colombia. Ben trovata. Ciao, ben trovati a te. Che racconto è questo? Racconto innanzitutto di un viaggio, un viaggio che ho fatto nel 2014 insieme al settore internazionale di Libera, perché appunto sono una volontaria dell'associazione, durante il quale ho incontrato tante persone che cercano di resistere in modo pacifico durante appunto questi oltre 50 anni di conflitto, perché spesso abbiamo sentito parlare delle FARC, ma in realtà le FARC non sono l'unico attore di questa guerra, ci sono le multinazionali, ci sono i paramilitari, gli altri gruppi guerriglieri, ieri è anche lo Stato che ha un ruolo fondamentale in tutta questa situazione. È un incontro soprattutto con le madri dei falsi positivi. Quello mi ha profondamente turbato e ho giurato loro che avrei fatto qualsiasi cosa per far conoscere appunto le loro storie. Partiamo ecco dai falsi positivi, per chi non conoscesse questa vicenda. I falsi positivi sono dei ragazzi innocenti, completamente estranei a qualsiasi gruppo criminale armato, che sono stati avvicinati con una proposta di lavoro, no? Poi rapiti, torturati, uccisi e travestiti da guerriglieri. Questa pratica, che ha trovato il suo picco numerico purtroppo negli anni del governo dell'ex presidente Álvaro Uribe tra il 2002 e il 2008, è nata come conseguenza perversa del Plan Colombia, un accordo tra gli Stati Uniti e il governo colombiano per far fronte alla guerriglia, per far fronte fronte appunto al nemico comunista, come lo definiscono gli Stati Uniti, come purtroppo insomma sappiamo che è un po' il pallino di alcuni paesi, come appunto soprattutto Stati Uniti. Quindi la lotta senza quartiere ha un ideale, quindi non soltanto a delle persone. Allora, per produrre i risultati, perché ovviamente c'erano previsti dei bonus e degli incentivi per ogni guerriero ucciso, l'esercito colombiano ha messo su questa pratica assurda, per la quale è stata anche condannata dalla giurisdizione speciale per la pace, un organismo che è stato istituito dopo gli accordi di pace del 2016, che ha dichiarato che solo tra il 2002 e il 2008 sono stati uccisi con questa pratica almeno 6.402 giovani. Una delle interviste si chiama Testimonianza di un ostaggio, perché questa persona è stata sequestrata dalle ELN per 27 giorni, dopodiché come reazione si è avvicinata al mondo paramilitare, insomma ne ha viste di cotte e di crude, fino a che non è riuscita a lasciare il paese. E quando io gli ho detto, ma tu tutte queste cose che hai visto le racconteresti al Tribunale Speciale per la Pace, che era alle Nazioni Unite, alla Commissione, all'Unione Europea? E lui mi ha detto no. Ha detto perché? Perché in Colombia c'è un detto, i morti non parlano, se io parlo sono una persona morta. Quindi lui queste cose le ha dette solo a me, cioè non le sapeva neanche la sua moglie con cui sta tipo da 20 anni. Proprio perché i morti non parlano, cioè se parlano li ammazzano, siamo noi a dover dare voce a quelle storie. Com'è nata l'idea del libro e poi come hai deciso di strutturarlo? Inizialmente, avendo una formazione giuridica, ero partita da tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario, le violazioni dei diritti umani, delle convenzioni di Ginevra. Poi ho pensato che sarebbe stato faticoso da leggere e appunto, siccome l'idea mia è quella di dar voce a queste persone che hanno subito queste torture, queste sparizioni forzate, ho stravolto completamente il mio modo di scrivere, sono partita proprio dalle storie. Nel libro infatti ci sono una decina di interviste, due delle quali sono anonime perché appunto hanno molta paura di subire ritorsioni, e attraverso le loro testimonianze ho poi ricostruito il contesto storico. Per me era importante dare valore al vissuto di ogni singola persona, che è emblematica, perché ogni persona ha vissuto e continua a vivere il conflitto sulla propria pelle. Ricordiamoci che qualche settimana fa è stato ucciso un magistrato paraguayano che si trovava in luna di miele in Colombia e che tra poche settimane ci saranno le elezioni presidenziali. Quindi ci sono molti più disordini, proprio perché il candidato favorito è Gustavo Petro, un ex guerrigliero che ha deposto le armi tanti anni fa e che rappresenta il patto storico, quindi una coalizione di sinistra, e sarebbe una svolta storica dopo tutti questi anni caratterizzati da un governo di destra e di estrema destra, per cui ci sono molte violenze, molte pressioni, ed è importante che ognuno di noi tenga alta l'attenzione, perché lì significa salvare vite umane. Che quadro viene fuori? Il quadro di un paese che è stato un laboratorio dove poter sperimentare la dittatura senza una dittatura vera, perché negli altri paesi dell'America Latina sappiamo che spesso ci sono stati stato militari e che hanno poi comportato tutta una serie di violazioni di diritti umani. Pensiamo all'Argentina, la dittatura di militare ha causato circa 30.000 desaparecidos. In Colombia, senza una dittatura ufficiale, superiamo i 120.000 desaparecidos. Viene fuori un paese nel quale l'andrangheta fa affari, ovviamente, con i cartelli del narcotraffico. Ci sono forti legami tra il nostro paese e la Colombia. Un paese dove tra l'altro viveva e ha trovato la morte Ciolla, un ragazzo italiano che lavorava per le Nazioni Unite, che voleva ritornare proprio perché non si sentiva più al sicuro, che è stato appunto trovato morto in condizioni ancora da chiarire e sulle quali le Nazioni Unite stanno attuando un silenzio più assoluto. E quindi un paese che ci tocca veramente da vicino, ricco perché pieno di pietre preziose, di risorse, che appunto dovremmo provare noi a prendercene cura e interessarcene, perché tutto quello che succede lì ha comunque delle ripercussioni anche sulle nostre vite. Le multinazionali che violano i diritti umani non sono quasi mai delle multinazionali latinoamericane soltanto, ma in alcuni casi c'è il coinvolgimento delle grandi storiche multinazionali anche con vertici italiani, per cui è un quadro preoccupante soprattutto adesso in vista delle elezioni, ma in generale è un posto dove fanno fatica a ricostruire la pace, perché la pace è un percorso, non è solo quella che è stata firmata da Havana nel 2016, è un tentativo di sanare quelle ferite del conflitto e provare a trovare una convivenza che non sia uno contro l'altro con i mitra. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? La pagina Villaggio Maurizioni della casa editrice, che ringrazio perché ha creduto in me, ha creduto nel progetto, la mia pagina Facebook, Instagram, Flavia Famà, come sostenere praticamente, no? Cioè, la comunità di pace di San José de Apartadó, per esempio, ha fatto alcuni accordi con l'azienda inglese Lush, a cui fornisce il cacao, e anche con il mercato equo e solidale. E c'è questo cacao che si può comprare che si chiama Choco Pass, ed è importante perché questa comunità, da quando si è costituita, quindi dal 97, è stata massacrata, attaccata sotto tutti i punti di vista, sia fisicamente sia via giudiziali, perché loro hanno decretato che quella zona è una zona di pace, quindi loro non danno aiuto a nessuno, nessuna delle parti in conflitto. E il fatto di non schierarsi per il governo colombiano, perché c'è anche questo, poi ne parla nel libro, un manuale per i militari che suddivide la popolazione in lista nera, lista bianca e lista grigia. Lista bianca quelli che sono schierati col governo, filo governativi, lista nera i guerriglieri, lista grigia quelli che non prendono posizione. Il problema qual è? Che i vertici militari, quindi questo manuale, autorizza le torture, le sparizioni forzate nei confronti delle persone della lista nera e della lista grigia, per cui loro invece resistono da tanti anni, ed è un modo concreto, come il cioccolato, che poi è pure buono perché è fatto in collaborazione col cioccolato di Modica, quindi che è quello storico, il cacao buono, alla fine gli dà comunque una mano. Ne dico un'altra, c'è un'associazione torinese che si chiama Iana Iapu, le radici del caffè, che prende caffè sempre dai contadini e da queste piccole comunità che cercano di fare delle coltivazioni lecite, quindi si rifiutano di coltivare droga e tutto il resto, e loro lo importano in Italia. Tra l'altro è molto buono, quello che ho preso io viene dal Nariño, che è, vabbè, una regione della Colombia, e non è lavato, quindi non inquina, perché il caffè ha tutto un procedimento particolare, per cui viene fatto un processo per cui viene estratto il miele che c'è dentro il caffè naturalmente, infatti è buonissimo. E anche questo, per esempio, è un altro modo pratico, prendere il caffè da loro, che ovviamente tramite sempre mercato e costo ridalo. Il libro I morti non parlano, la guerra infinita in Colombia. Un saluto e un ringraziamento all'autrice Flavia Famà. A presto! Grazie a te, a presto. Ciao! Con Silvano Falocco, coautore del libro Roma Coloniale, presentato a Roma al Palazzo Valentini venerdì 20 maggio 2022, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci racconti di questo lavoro? È un progetto sulle tracce del colonialismo a Roma, nelle vie, nelle piazze, nelle targhe, nei monumenti, nei palazzi, e a partire da queste tracce che sono state classificate in modo sistematico, sono quasi 150, abbiamo intrecciato queste tracce con la storia non conosciuta del colonialismo italiano, non conosciuta al pubblico di massa, ma conosciuta ovviamente agli storici. Il caso più noto è quello degli obelischi restituiti. Sì, l'obelisco restituito di Aksum è e rimane l'unico reperto restituito, mentre ce ne sarebbero molti altri, considerando che l'Italia ha saccheggiato il monastero di Debre Libanos, che aveva dei tesori, dei preziosi di valore inestimabile, e in seguito a quel saccheggio sia Badoglio che Graziani hanno portato centinaia di casse in Italia di preziosi che non sono stati né trovati né restituiti. Quindi l'obelisco di Aksum rimane in ogni caso l'unico reperto che è stato restituito, nonostante ci fossimo impegnati con il trattato di pace del 1947 alla restituzione integrale di ciò che era stato sottratto. Parlavi di Graziani, a Rodolfo Graziani il comune di Affile ha dedicato un monumento, quando sì. Sappiamo invece che è stato responsabile di eccidi, dell'uso di armi chimiche anche contro le popolazioni. Sì, Graziani è stato e rimane un vero criminale, autore direttamente di stragi, di eccidi, di deportazioni, dell'uso indistinto del gas al fosforo, che ancora oggi noi contestiamo quando viene utilizzato nelle guerre. Noi fummo tra i primi ad utilizzare

che dia un altro senso ai luoghi che invece hanno delle tracce che oggi noi non riconosciamo. Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli? Il sito delle Comari Edizioni, che è www.lecomari.it, il libro lo trovate nelle librerie indipendenti e dal sito si possono ricavare anche le informazioni sulle presentazioni o anche si possono organizzare delle presentazioni. Noi ci teniamo molto che in queste presentazioni siano presenti anche comunità di afrodiscendenti o associazioni di afrodiscendenti. Il libro Roma Coloniale, presentato a Roma, Palazzo Valentini, venerdì 20 maggio 2022. Un saluto e un ringraziamento al coautore Silvano Falocco. A presto! Grazie, arrivederci. Serena di Balia dal Collare, sull'escursione zaino in spalla, penna alla mano, a Paterno di Castel Sant'Angelo, provincia di Rieti, domenica 29 maggio 2022. Ben trovata. Ciao, ciao, grazie. Partiamo dalla Balia dal Collare, per chi non la conoscesse, raccontiamo cos'è. Balia dal Collare è un gruppo di attivisti e attiviste della provincia di Rieti. Siamo nati un paio di anni fa in risposta alla riproposta al progetto TSM2, termini lo stazione montana. E in realtà non siamo soltanto impegnati nella difesa delle montagne dell'Appennino dell'Italia centrale, in particolare la provincia di Rieti dove viviamo e siamo attivi, ma anche il tema preoccupante della privatizzazione dell'acqua. Il nostro gruppo sta lavorando affinché si sviluppi una visione di territorio che vada un po' contro quella direzione di estrazione delle risorse e la loro privatizzazione. E per questo motivo abbiamo utilizzato nella nostra vertenza legale contro il progetto TSM2 lo strumento degli usi civici, proprio per ragionare in termini di beni collettivi e riappropriazione dei beni da parte delle comunità. In linea con questo discorso abbiamo già raccontato in radio varie camminate, vari presidi sul Terminillo. Stavolta faremo un'iniziativa non direttamente rivolta all'area del Monte Terminillo, ma si trova sempre nell'area dei Monti Ariatini. E abbiamo deciso di costruire appunto una sorta di camminata, però stavolta un po' diversa, perché abbiamo lavorato con alcuni storici locali e abbiamo anche fatto un lavoro di scavo in quelle che sono le memorie rispetto a come veniva vissuta la montagna dal punto di vista economico e delle relazioni sociali e soprattutto in che modo venivano gestite le risorse. Noi ci troviamo in un bacino idrico che è uno dei più grandi d'Europa e incombe su questo territorio, così come ovunque, la crisi idrica, e quindi faremo in realtà una camminata in cui questi storici, ma anche le persone del luogo e chiunque vorrà partecipare, ragioneranno ricordando anche come venivano vissuti alcuni sentieri e alcuni siti dove arriveremo. L'idea un po' nuova che stiamo portando avanti è quello di costruire una sorta di guida di taccuino storico ambientale che poi possa essere anche un incentivo a attrarre persone su questi territori, non in una logica del consumo dei luoghi, delle montagne, ma anche del camminare, ma appunto di attraversarli in sintonia con quella che è la sua configurazione e la sua storia. Quindi ci vedremo alle 8:30 nella piazza della frazione di Paterno, nel comune di Castel Sant'Angelo, e attraverseremo una serie di luoghi, raggiungeremo i 1500 metri e torneremo alla fine della giornata nella frazione di Castello, e lì appunto come Balia faremo una solita merenda autogestita per autofinanziare le spese legali del nostro percorso vertenziale. E chiaramente poi ci sono tutte le informazioni per prenotarsi, c'è un numero di riferimento, fatelo quanto prima in modo da poterci organizzare e capire i numeri insomma che avremo. Ciao, ciao, grazie. Serena di Balia dal Collare, sull'escursione zaino in spalla, penna alla mano, a Paterno di Castel Sant'Angelo, provincia di Rieti, domenica 29 maggio 2022. È il momento dell'agenda della settimana teatrale, ma anche degli eventi culturali, con Simone Nebbia di Teatro e Critica. Ciao Simone. Buon pomeriggio a tutti voi e andiamo a vedere un po' cosa ci offre questa settimana, ma ci offre anche qualcosa che magari resta per i prossimi tempi, per i prossimi mesi, come nel caso di questa serie di 7 eventi organizzati dalla Sapienza e dal Ministero della Cultura dedicati all'attore e il performer, tradizione e ricerca, memorie teatrali di fine millennio. C'è l'archivio storico audiovisivo del Centro Teatro Ateneo e del Dipartimento di storia, antropologia, religione, arte e spettacolo, hanno messo un po' tutto insieme, della Sapienza, e per appunto valorizzare questo patrimonio dell'archivio con la direzione di Ferruccio Marotti, dal 24 maggio fino a dicembre ci saranno appunto 7 eventi, questa proiezione dei docufilm dedicati a grandissimi del teatro italiano e internazionale, pensiamo insomma alla ricostruzione del Principe Costante di Grotowski, oppure Acropolis dello stesso, Il silenzio dell'attore Afonè, Bene Gassman, Il comico secondo Sordi, Fo, Benigni, insomma Edoardo, ci saranno vari appuntamenti dal 24 maggio in poi, e quindi insomma invito sul sito della Sapienza a guardare un po' l'intero programma per non perdere questi appuntamenti. Poi al teatro Le Maschere, 26-29 maggio, Sabrina Scuccimarra, attrice insomma, che abbiamo imparato a conoscere sui palchi romani, soprattutto negli anni passati, con la regia di Martino D'Amico, va a proporre questo becchettiano o quasi Giorni Infelici. Questo è appunto il titolo che con la produzione di Paliglione Ludwig va dal 26 al 29 maggio a portare teatro al Teatro Le Maschere, a portare spettacolo al Teatro Le Maschere. Ovviamente prende spunto da Giorni Felici di Beckett ed è un atto di coscienza, l'inutilità dello sforzo di rompere il cliché in cui abbiamo chiuso la nostra esistenza. Donna è la protagonista, interpreta se stessa, affronta la sua giornata con la corazza delle conversazioni, delle abitudini, degli amori ideati e ideali probabilmente, tenta che tutto resti nel binario dello stereotipo. Questo è quello che andremo a vedere dal 26 al 29 maggio al Teatro Le Maschere con Giorni Infelici. Poi procediamo, perché al Teatro Basilica arriva Claudia Della Seta e la sua regia di L'ingrediente perduto, dal romanzo omonimo di Stefania Affel Barzini, che cura con lei anche il testo dello spettacolo. Sarà in scena dal 27 al 29 maggio al Teatro Basilica, un'unica serata con una serie, sono 3 brevi puntate. Siamo nel 94 a San Francisco, al bar Zan Zan, luogo storico della Summer of Love del movimento hippie. Sara è ad una gita scolastica per visitare i cimeli dei figli dei fiori, e da un muro Sara vedrà una donna in foto che le sorride, e da lì chiaramente inizierà un percorso che porterà Sara, la nostra protagonista, a contatto con quell'America degli anni 50 e poi quella degli anni 70, quella generazione insomma che ha cambiato l'intero Novecento. 27-29 maggio, L'ingrediente perduto al Teatro Basilica. Per ciò che riguarda invece il Teatro Vascello, andremo a vedere ben 2 spettacoli questa settimana. Il primo sarà da questa sera fino al 26 di maggio, e si tratta di Tony, scritto, diretto e interpretato da Paolo Zuccheri, che appunto cerca la possibilità di far accomodare il pubblico nella mente di una persona disturbata, questo Tony, dove albergano più voci. Sono voci che non sono lì in modo caotico, ma dialogano tra di loro, a volte in termini conflittuali. Quindi far coesistere 2 dialoganti all'interno di un unico interprete è, diciamo, il pensiero di Paolo Zuccheri in una dimensione da thriller che porterà a contatto con i disturbi psichici di questo personaggio Tony. Quindi 24-26 maggio con Tony, ma segue invece Vanity Dark Queen, Niobe, regina di Tebe, 27-28-29 maggio, la terza Dark Queen portata in scena da Stefano Napoli dopo Cleopatra ed Elena di Troia. Questa Dark Queen, appunto, che è Niobe, regina di Tebe, è uno spettacolo dedicato a questa antica regina di vanità che volle farsi felice contro l'antica saggezza per cui solo gli dèi potevano dirsi felici. Cose umane agli umani, dicevano gli dèi e Niobe ribelle viene trasformata in roccia di lacrime e segna il confine da non superare. Questo è un po' il pensiero attorno allo spettacolo e Niobe sarà appunto in scena al Teatro Vascello 27-29 maggio con la regia di Stefano Napoli. Poi, sempre 26-29 maggio, Teatro Lo Spazio, Donatella Busini presenta il suo testo Io ed Elena con le direzioni e interpretazioni di Mauro Toscanelli, Bruno Petrosino, appunto al Teatro Lo Specchio, Lo Spazio, non Lo Specchio, ovviamente, due donne, una madre ed una figlia affetta da gravi disturbi psichici, diversamente uguali, vicine nella solitudine con cui l'esistenza e la malattia le hanno portate a convivere. Questo è il loro rapporto d'amore, ma d'amore violento, cupo, tagliente, sfibrante a volte, quello tra una madre e una figlia, al Teatro Lo Spazio del 26 al 29 di maggio, Io ed Elena. Invece, appunto, come si diceva già, Donne di Mafia, Teatro Spazio 18B, 23-26 maggio, storia di un digiuno lungo 30 anni, per non perdere il vizio della memoria, e questi sono giorni in cui si ricorda della strage di Capaci, 30 anni da Giovanni Falcone e tutto ciò che ne consegue. Al Teatro Olimpico arriva invece Exodus, che è il nuovo lavoro dei danzatori della compagnia No Gravity, 25-29 maggio. Per questo lavoro, appunto, si chiama Exodus, che è il nome della nave che portò in Palestina gli ebrei nel 1947. Quella sorta di esodo biblico di ritorno nella storia ebraica che diventa immigrazione, ecco, e tutto ciò che poi consegue con il legame tra il mondo arabo e il mondo ebraico che coesistono in questa condizione conflittuale della guerra appunto israelo-palestinese, che la compagnia No Gravity di Emiliano Pellissari e Mariana Porceddu riescono a identificare nella danza, un'opera di danza e teatro che riprende la grande tradizione cristiana dell'arte rinascimentale, viene unita alla musica araba di Jordi Savall e la voce ebraica di Moni Ovadia, quindi una contaminazione tra Oriente e Occidente, tra i due mondi, per la compagnia No Gravity al Teatro Olimpico. Invece, dunque, tanto al Teatro India rimane nella solitudine dei campi di cotone fino al 29 maggio, Bernard Marie Coltès, regia di Andrea De Rosa con Federica Rosellini e Lino Musella, un testo importantissimo, un classico moderno del teatro. Questa chiusura, questo silenzio del testo con il venditore, il cliente, che insomma cercano di entrare a contatto e di costruire una relazione, sarà fino al 29 maggio al Teatro India, mentre invece al Teatro Vittoria andremo a vedere questa settimana la rassegna Salviamo i Talenti, la 13ª edizione di questa rassegna che assegnerà il premio Attilio Corsini 2022, vedrà un po' di spettacoli giovani susseguirsi sul palco del Teatro Vittoria. Appunto, noi oggi ne abbiamo trasmesso uno che ha vinto il premio Attilio Corsini lo scorso anno e vedremo quest'anno insomma chi la spunterà. Volevo vedere il mare questa sera di Armando 40, aprirà la rassegna, poi più avanti ci saranno altri spettacoli, il Depredatore Vincenzo, De Filippo, la regia di Emanuele Pascale, la regia di Beatrice Mitruccio con Disperato Eretico Show, seguirà poi Meridiani di Chiara Stella Sorrentino e poi vedremo quale sarà il verdetto finale. Ma l'ultima cosa che segnalo, lo spettacolo un po' della settimana, sarà quello del Teatro Argentina, perché il 26 maggio, 5 giugno, Goliarda Sapienza, con la regia di Mario Martone, Il filo di mezzogiorno. In scena c'è una grande attrice come Donatella Finocchiara, insieme a Roberto De Francisco, ed è la scrittura di Goliarda Sapienza, quella del libro autobiografico Il filo di mezzogiorno, un libro a lungo non conosciuto e che va controcorrente, fuori dagli schemi, così come le ideologie politiche del suo tempo erano completamente fuori da quello che poi all'epoca era ritenuto accettabile. Partigiana, femminista, con la lotta contro il conformismo di Goliarda Sapienza, con questo libro scandaloso autobiografico del 69, ora ripubblicato dalla Nave di Teseo, se ne va in scena con la regia di Mario Martone dal 26 maggio fino al 5 giugno con Il filo di mezzogiorno, Mario Martone, a Teatro Argentina. E questo è tutto. Ciao!